Luca Labanti. Bologna ha delle potenzialità enormi, bisogna che insieme con le varie associazioni ci muoviamo. Non mi piace il comportamento che alcuni stanno assumendo di arroccarsi dietro alle proprie idee. Da ultima la notizia che si vogliono chiudere i Deor. I Deor secondo me sono fondamentali per tutto il mondo della ristorazione bolognese, ma sono fondamentali anche per noi in questo momento di pandemia, perché permettono quel distanziamento sociale, permettono di poter stare all'aperto, permettono di avere un'aggregazione sociale sicura. Poi c'è tutto il problema di come spendere i soldi del PNRR. Io credo che lì sia fondamentale un continuo confronto tra le forze politiche di maggioranza, di minoranza, e anche una partecipazione attiva dei cittadini. Dobbiamo fare ripartire l'economia dopo questa bruttissima fase pandemica, che mi auguro sia superata in breve tempo, ma serve un dialogo continuo, fattivo, tra tutte le forze imprenditoriali, politiche, dell'associazionismo, un confronto continuo. Vorrei un rilancio di Bologna dal punto di vista del turismo, però fatto con criterio, grandi iniziative culturali, ripartenza di avvenimenti culturali, non solo quelli importanti, ma anche quelli fatti da artisti non conosciuti, ma oggigiorno non sono in grado, non possono riuscire a organizzare eventi. Non dobbiamo solo guardare in grande, dobbiamo guardare anche nelle cose piccole, aiutare anche chi non ha grandi strumenti per potersi farsi notare, ma che ha il grande desiderio di portare avanti un proprio progetto, una propria idea. Dobbiamo aiutare tutti, soprattutto anche i giovani artisti, che devono avere la possibilità di esprimere le loro capacità.